Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Prima di tutto volevo mandare un saluto e un ringraziamento ad Irene Zerbini e Barbara Bianchi che si sono prese cura con successo di Salva Danaio nelle ultime 3 settimane, mantenendo l'occhio vigile sui temi di attualità che sono importanti per tutti i consumatori, i cittadini e i contribuenti. Quindi un saluto ancora e un ringraziamento alle mie colleghe. Noi oggi riprendiamo la nostra trasmissione rifacendo il punto su un tema fiscale che ha messo non poco di cattivo umore gli italiani nei mesi passati. Parliamo dell'IMU, l'imposta municipale unica, nella sostanza la vecchia ICI reintrodotta in una versione rivisitata. Ne riparliamo perché, come ben sapete, si avvicina la seconda scadenza per il pagamento di questa imposta, scadenza che riguarda quei contribuenti proprietari di un immobile considerato abitazione principale che a giugno hanno optato per il pagamento complessivo in 3 rate anziché 2. La data dunque per questo secondo versamento è fissata per il 17 settembre. Niente rateizzazione a 3 per le seconde case e le altre tipologie di proprietà. Allora, avete qualche dubbio su questa scadenza? Non ce ne dovrebbero essere molti, perché immaginiamo che tutti i dubbi si concentreranno a dicembre, quando si dovrà effettuare il saldo del versamento, e lì, visto che manca ancora la definizione delle aliquote da parte di alcuni comuni, saranno forse dolori per molti. Ma in ogni caso noi oggi ne approfittiamo per fare il punto della situazione, come sempre con il nostro Cristiano Dell'Oro, Il Sole 24 Ore. Cristiano, ciao, bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. E poi ringrazio e saluto il secondo nostro ospite collegato telefonicamente, Stefano Perego, consigliere della GEFIS, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Perego, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e anche agli ascoltatori. Molto bene, allora, per tutti gli ascoltatori che hanno delle domande da farci su questo argomento, conoscete benissimo la modalità per intervenire, che è quella: se volete utilizzare il contatto telefonico dell'800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. potete andare anche su Facebook, il nostro indirizzo, il nostro profilo è salvadanaio-radio24. La borsa, naturalmente non ci dimentichiamo di questo appuntamento, e siccome questa è una settimana molto importante, cruciale per i mercati, gli occhi sono puntati su giovedì 6 settembre, sulla riunione del direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte, appuntamento nel corso del quale Mario Draghi dovrà alzare il velo sulle iniziative e le misure non convenzionali che la BCE intende intraprendere per soprattutto proteggere i paesi periferici dagli enormi allargamenti degli spread che hanno messo in forte difficoltà molti stati, soprattutto la Spagna e l'Italia in tempi recenti. Allora, mercati che probabilmente rimarranno in attesa di questo appuntamento da qui a mercoledì. Tra l'altro, in realtà questa attesa sembra positiva, perché le borse europee che stamattina avevano aperto in negativo in realtà poi hanno cambiato direzione e hanno preferito appunto riprendere gli acquisti. C'è un rialzo di più 0,7% a Milano, che è arrivato a guadagnare oltre un punto, Parigi più 0,48%, Francoforte più 0,46%, Londra più 0,58%. Oggi non ci sarà lo stimolo di Wall Street, il mercato americano è chiuso per il Labor Day, quindi ci concentreremo fondamentalmente su temi europei. Stamattina il segno meno era stato determinato dal dato sull'attività manifatturiera in Cina, che è crollata ad agosto a livello più basso dal marzo del 2009, ma questa tendenza cinese ormai la conosciamo da diversi mesi, e anche i dati macroeconomici che vengono diffusi non stupiscono più gli operatori. Questo comunque il quadro. Un'occhiata solamente ai migliori titoli di Piazza Affari, quindi ai titoli, alle società più gettonate stamattina dagli investitori. Abbiamo Campari più 5,58%, il gruppo ha lanciato un'offerta per l'acquisizione cash di una società giamaicana leader nel rum, chissà se la pronuncio bene, non la pronuncerò mai in maniera corretta, la Shelles de Mercado, e quindi questa iniziativa viene vista con grande consenso dagli operatori. Il titolo guadagna appunto, vi dicevo, il 6%, e poi vanno bene anche gli altri titoli legati in qualche maniera ai consumi consumi alla moda, Tots più 4%, Salvatore Ferragamo più 2,68%, in rialzo di 1,5% abbiamo Mediaset, Luxottica, Banco Popolare, Tenaris e Banca Monte dei Paschi, meno 1,18% per STM, meno 0,8% per Eni, secondo le indiscrezioni emerse nel weekend, a breve dovrebbe partire il collocamento del 3,4% di Eni da parte della Cassa Depositi e Prestiti nell'ambito del riassetto di Snam Rete Gas. Ansaldo meno 0,3%, questi sono gli unici titoli negativi a Milano in questo momento. Rapporto euro-dollaro a 1,2566, spread fra BTP e Bund a 448 punti base. Questa era la giornata di borsa, noi però oggi ritorniamo ai dolori fiscali e parliamo della seconda scadenza IMU. I pagamenti, soprattutto in questo anno di tasse, non finiscono mai. Si avvicina infatti la scadenza della seconda rata dell'IMU, per tutti coloro che hanno scelto di pagare in 3 rate e non in 2. Questa scelta era possibile solo per l'abitazione principale, la cosiddetta prima casa, mentre per tutti gli altri immobili l'unica possibilità era e resta quella di dividere il pagamento in 2 rate, l'acconto a giugno e il conguaglio a dicembre. Entro il 17 settembre bisogna dunque riprendere in mano il modello F24 di giugno e compilare esattamente tutti i dati relativi a importo, codice tributo, che è il 3912, e codice catastale del comune. Attenzione alla casella rate azione mese RIF, dove bisogna scrivere 0202 al posto del numero usato per la prima rata. E questo anche se a giugno si è lasciata la casella in bianco. La seconda rata di settembre, uguale alla prima di giugno, è pari a 1/3 dell'importo calcolato prendendo come base di calcolo IMU l'aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, eventualmente maggiorata di 50 euro, per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. Ma attenzione, se nel frattempo il comune ha deliberato un'aliquota più bassa di quella nazionale o una detrazione più alta, è possibile pagare con le aliquote comunali. Al momento del saldo del 17 dicembre, invece, bisognerà tenere conto sempre e comunque delle aliquote locali e andare a versare a conguaglio la differenza con quanto pagato in acconto. 800 24 00 24, come sempre il numero verde che vi dà l'opportunità di prenotare i vostri interventi ed eventualmente appunto intervenire in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 per i vostri messaggi brevi. Se volete invece scriverci delle considerazioni, delle domande più articolate, lo potete fare all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Cristiano Dell'Oste oggi nelle pagine di Norme e Tributi sul Sole 24 Ore. Tutte le novità, tutti i dettagli appunto su questa seconda scadenza IMU, ma anche un po' un riepilogo sulle regole generali per essere a posto con questa imposta. Sì, esatto, abbiamo una pagina appunto all'interno dell'inserto Norme e Tributi che si occupa della scadenza del 17 di settembre, entro cui appunto va versata la seconda rata per quanto riguarda l'abitazione principale. Poi abbiamo anche all'interno dell'Esperto Risponde l'ultimo numero dello speciale estate dell'Esperto Risponde, che è proprio dedicato a un altro tema legato alla casa, che sono le detrazioni fiscali maggiorate al 50% al posto del vecchio 36% per chi ristruttura un'abitazione. È un'agevolazione nuova che è stata introdotta dal decreto sviluppo e che resta in vigore per le spese sostenute fino al 30 giugno del 2013. È un tema del quale abbiamo già parlato, magari ci ritorneremo anche nelle prossime settimane. Per chi avesse intenzione di rimettere a nuovo la propria abitazione può farlo adesso con questa opportunità fiscale molto vantaggiosa. Allora, dicevamo, per la verità ce lo dicevamo prima a microfoni spenti, in realtà anche qualche giornale in questi giorni lo ha messo in evidenza, non sono moltissimi i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione a 3 dell'IMU, Cristiano, giusto? Esatto, non sono molti, parliamo di una piccola percentuale dei proprietari di abitazione principale, cioè della cosiddetta prima casa, e questo in realtà ha una spiegazione abbastanza comprensibile, perché la formula base è quella secondo cui sulla prima casa si paga un acconto pari a metà dell'imposta calcolata secondo l'aliquota nazionale a giugno e poi, tenendo conto delle aliquote comunali, si va a versare entro il 17 di dicembre il saldo, facendo appunto il conguaglio con le scelte locali. Invece c'era anche questa alternativa, che era quella di versare in tre tranche l'IMU e di fare quindi 1/3 dell'imposta calcolata secondo l'aliquota nazionale a giugno, un altro terzo entro il 17 di dicembre, di settembre, e poi andare appunto il 17 di dicembre a conguaglio con il saldo. Allora è evidente che l'opzione era tra pagare metà dell'imposta a giugno o pagare i due terzi entro settembre. Quindi è chiaro che così si paga un pochino di più. Chi può averlo fatto? Può averlo fatto chi aveva importi molto alti da pagare e aveva magari qualche problema di liquidità e quindi ha preferito frazionare in più tranche il pagamento. Diciamo che però così riteniamo improbabile, anche se chiaramente l'IMU è stata fastidiosa per tutti i contribuenti, che riguardando questa possibilità di rateizzazione solamente i titolari di una abitazione principale, ecco, gli importi non fossero poi così rilevanti. Magari sarebbe stata forse più utile per chi doveva... Per chi versava per la sulla seconda casa, beh, sicuramente sulla seconda casa, sui fabbricati produttivi, sui terreni, l'imposta è più alta. Ma in realtà, se ricordiamo, era la scorsa primavera, c'era stato un po' di dibattito sulla possibilità di pagare a rate. I comuni avevano subito alzato le mani, avevano detto: attenzione, se fate pagare a rate sugli altri immobili, noi non riusciamo più a garantire gli stipendi ai nostri dipendenti. Quindi era un po' un equilibrio delicato. Esatto, un piccolo ricatto che comunque aveva anche del vero. Allora, prima di andare a Stefano Perego, Cristiano, ti volevo fare un'altra domanda. Tutti i comuni hanno stabilito in via definitiva l'aliquota che devono applicare appunto ai contribuenti? Non ancora, una gran parte l'ha fatto, ma non dimentichiamoci che hanno tempo fino al 30 di settembre per deliberare l'aliquota e il regolamento IMU. Peraltro, anche chi avesse già deliberato, fino al 30 di settembre può fare delle correzioni e quindi può cambiare le aliquote. Diciamo anche che le correzioni sono abbastanza rare, abbastanza improbabili da quello che stiamo vedendo, perché molti comuni che hanno deciso... già optato per le aliquote massime, quindi... Esatto, si sono tenuti alti e quindi non hanno motivo di ritoccare purtroppo spesso all'insù. Ah, guarda, sarebbe veramente una notizia interessante se scovassimo qualche comune che decide il 30 settembre di ridurre l'aliquota già precedentemente fissata. Stefano Perego, ancora buongiorno. Allora, quanti contribuenti vengono presso i vostri uffici a chiedere informazioni su come devono comportarsi con questo secondo versamento? Ma in realtà non sono molti, perché come diceva già Cristiano Dell'Orte, hanno quasi sull'abitazione principale hanno quasi tutti scelto il pagamento in due rate. Tenuto conto che in realtà l'unico problema che si pone è quello relativo agli immobili dei soggetti anziani che hanno preso la residenza in istituti di ricovero. Su questi soggetti esiste un problema fondamentale, che è il codice che attualmente è stato utilizzato per la prima rata, e sono questi soggetti che si rivolgono a noi, perché alcuni comuni hanno deliberato di riconoscere l'abitazione principale anche a questi soggetti a condizione che l'immobile non sia locato. Si rivolgono a noi per sapere come potranno eventualmente recuperare l'imposta che hanno versato a giugno in parte al comune e in parte allo Stato. E la risposta qual è, Perego? Il problema è che il codice 3919 è un codice che è la quota relativa ad altri immobili nei confronti dello Stato, non è un codice compensabile, e speriamo che su questo il Ministero prenda una posizione. Benissimo, allora poi magari la ricordiamo tutta la vicenda appunto degli anziani negli istituti di ricovero, anche se Perego ce l'ha già sintetizzata piuttosto bene, ma ci ritorneremo. Allora io direi di dare subito spazio ai nostri ascoltatori, perché sto notando tra le domande che ci stanno arrivando all'800240024 un problema che accomuna molti contribuenti, cioè ci sono molti che non hanno avuto l'opportunità, non ne avevano appunto evidentemente la capacità in quel momento, non hanno avuto appunto l'opportunità, non sono riusciti a pagare la prima rata di giugno, e quindi chiedono se adesso possono in qualche maniera con questa seconda rata che va versata appunto entro il 17 settembre, se possono mettere a posto le proprie posizioni. Allora io abbiamo scelto con Marco Lombardo Stefano da Bologna, che in qualche maniera si fa portavoce dei numerosissimi ascoltatori che ci sollevano questa tematica. Stefano, buongiorno. Buongiorno, infatti la mia domanda è proprio la seguente: io non ho potuto pagare la prima rata, volevo pagare la seconda e quindi saldare con la seconda la totalità dell'importo. La mia domanda è a che sanzioni sono soggetto e se questa cosa posso farla. Stefano, la ringrazio. Tra l'altro volevo ritornare per un attimo all'altro Stefano, a Perego. Anche in questo caso le chiedo se molti contribuenti che si avvalgono della vostra consulenza si sono ritrovati nella impossibilità di pagare appunto a giugno e adesso in qualche maniera vorrebbero rimediare con la scadenza di settembre. Poi diremo, spiegheremo che non è possibile farlo comunque. Sì. Allora, in realtà la maggioranza dei nostri contribuenti che si rivolge ad Agefis utilizza anche Agefis per la compilazione del modello 730 e quindi eventualmente avendo dei crediti di imposta con il modello 730 era possibile compensarli con il pagamento dell'IMU, della prima rata IMU. Non sono molti quelli che si sono rivolti per eseguire delle regolarizzazioni. Abbiamo previsto comunque la possibilità di attivarci per operare con il ravvedimento operoso. Esattamente, infatti ha già introdotto la parola magica il nostro esperto Perego Cristiano. Allora, non si può utilizzare il secondo versamento dell'IMU per rimediare al mancato pagamento di giugno, si può però utilizzare appunto il sistema del ravvedimento. In che cosa consiste? Cosa possono fare i contribuenti che a giugno non avevano i soldi per pagare la prima rata? La regola del ravvedimento operoso dice che se si paga oltre, con un ritardo superiore a 30 giorni, bisogna versare, oltre all'imposta che era dovuta, insomma, in origine, sanzioni che sono pari al 3,75%, quindi bisogna calcolare appunto il 3,75% dell'imposta che si doveva pagare, e gli interessi legali che vanno conteggiati al tasso annuo del 2,5%. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che devo rapportare questo 2,5% al numero di giorni di ritardo, per cui per esempio se fosse di 6 mesi il ritardo farei diviso 2 e quindi avrei l'1,25%. Questa somma, quindi l'imposta più la sanzione più gli interessi, ci dice quello che dobbiamo pagare con la formula del ravvedimento operoso. Ovviamente si è sempre in tempo a farlo, e anzi, se si ha la possibilità di farlo, conviene farlo senza aspettare il momento del saldo, perché la possibilità di fare il ravvedimento operoso e quindi di avere questa sanzione ridotta è condizionata al fatto che l'amministrazione finanziaria o, come più probabile in questo caso, il comune non ci abbia ancora mandato una contestazione. Quindi se il comune si accorge che noi per la nostra abitazione principale non abbiamo pagato e ci manda magari a casa una lettera di chiarimenti, una richiesta di chiarimenti, questa semplice richiesta di chiarimenti è sufficiente, hanno stabilito insomma la giurisprudenza in materia fiscale, a bloccare la possibilità di fare il ravvedimento. Quindi le sanzioni salgono al 30%. Secondo te, per chi non ha pagato in giugno, entro quanto arriva questa richiesta di chiarimento da parte dell'amministrazione comunale? È molto difficile dirlo perché dipende dai singoli comuni. Diciamo che il consiglio è quello di non aspettare troppo. Poi possiamo dire anche un'altra cosa su cui magari ci possiamo confrontare con Perego, ma penso sia corretto, ed è cioè che siccome trattandosi di un'abitazione principale io a giugno avrei potuto pagare soltanto un terzo, si può optare sì della formula in tre rate, quindi pagare le sanzioni e gli interessi su un terzo dell'imposta anziché su metà, e poi saldare al 17 di settembre la seconda rata correttamente, ecco, quindi attenuare un pochino il peso delle sanzioni. Viceversa, se invece io non voglio trovarmi ad aver pagato già a settembre i due terzi dell'imposta, allora calcolerò sanzioni e interessi su metà del tributo annuale e poi andrò a dicembre a pagare il resto. Un commento veloce a Perego, cosa ne pensa di questi suggerimenti di Dell'Oste? È un buon suggerimento ed è corretto, ed è possibile in assenza del pagamento della prima rata considerare per l'abitazione principale il fatto che si sarebbe voluto o potuto pagare in tre rate. Benissimo, ci siamo occupati di chi, non avendo potuto effettuare il versamento in giugno, chiedeva se si potesse mettere in regola a settembre. Ogni momento è quello giusto per mettersi in regola con il fisco, soprattutto se nel frattempo non si è ricevuta almeno una contestazione fiscale da parte dell'amministrazione comunale o addirittura da un livello più alto come l'Agenzia delle Entrate. L'IMU torna alla cassa. Dunque, tra l'altro, con Cristiano Dell'Oste stavamo anche ricordando alcuni aspetti a microfoni spenti. Ricordiamo che questo versamento della seconda rata si può fare solo con il modello F24. Cristiano, per quale motivo? Ma perché No, è una semplificazione, o meglio un obbligo che è stato introdotto con l'IMU per ragioni di tracciabilità del gettito, cioè per consentire allo Stato di misurare correttamente quanto veniva versato da parte dei contribuenti in modo più immediato che non con i bollettini postali pagati al comune. Ecco, quindi diciamo che in precedenza, in giugno, ricordiamo le varie opzioni di pagamento che c'erano state, bollettino postale? No, questo era per la vecchia ICI, no, già a giugno era obbligatorio il modello F24, tornerà invece la possibilità di pagare con i bollettini postali per il saldo di dicembre, però in questo caso stiamo ancora parlando di modello F24. Tra l'altro, una cosa importante da dire è che in realtà il modello F24 può essere usato di tre tipi diversi, cioè c'è il modello semplificato, che è quello sostanzialmente che sta tutto in una paginetta e che è il più semplice da compilare per chi deve pagare solo l'IMU, poi c'è il modello ordinario, che ha appunto la dicitura tributi sezione IMU, ma va bene e può essere usato addirittura fino alla primavera dell'anno prossimo il vecchio modello con la dicitura sezione ICI, non importa nulla, l'importante è mettere i codici tributo dell'IMU e compilarlo insomma secondo le regole dell'IMU. Lo dico perché in realtà spesso ci hanno segnalato che ancora negli uffici postali e in banca si trovano parecchie copie del vecchio modello F24 con scritto sopra ICI, a volte i funzionari all'inizio soprattutto non lo sapevano, dicevano no guardi non va bene, in realtà è utilizzabile senza problemi. Ottimo. Stefano Perego, consigliere di AGEFIS. Io tra l'altro mettevo, per quello che riguarda la vostra organizzazione, l'accento sbagliato, comunque l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Un altro aspetto che va ricordato è che questa opzione, questa possibilità di rateizzare a tre esiste solo per quest'anno, no? Non credo che lo Stato o l'amministrazione fiscale darà questa opportunità anche l'anno prossimo. Mi sbaglio, Perego? Dipende dal regolamento comunale, in realtà il comune potrebbe nell'ambito del regolamento prevedere anche questa opzione, perché quindi lo sceglierà in ogni caso il comune. Ricordiamo che l'abitazione, l'agevolazione è solo esclusivamente per l'abitazione principale e l'imposta per l'abitazione principale è solo di competenza del comune. Va bene, quindi in ogni caso vedremo l'anno prossimo, intanto interessiamoci delle contingenti, dell'attualità, di quello che dobbiamo fare entro il 17 settembre ed eventualmente poi a fine anno. Ricominciamo con i nostri ascoltatori, ci sono molte domande interessanti. Nico da Vercelli, che è arrabbiatissimo con il suo commercialista. Cosa ha combinato, Nico? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Il problema è stato molto semplice per lui, nel senso che facendo gli F24 sulla casa di mio figlio ha messo la cifra intera, anziché dice che è il programma del computer che si è sbagliato. Vabbè, sti computer non sono più quelli di una volta. Comunque, adesso volevo sapere questo. Oltretutto, mio figlio ha anche un secondo figlio che non è ancora stato conteggiato, tra virgolette. Adesso, avendo pagato per intero e dovendo scalare, praticamente pagare meno, avrebbe dovuto pagare meno nella seconda rata. Non avendo la seconda rata, come deve fare? Lui aveva eventualmente deciso con il commercialista se fare il versamento in tre rate, in due? No, in due. Cioè, lui avrebbe voluto fare insomma la procedura più diffusa, normale, quella in due. Però praticamente il commercialista gli ha messo tutto quanto l'importo nella prima rata. Allora, teoricamente, a dicembre non dovrebbe pagare nulla, comunque solamente una piccola differenza, Cristiano, anche perché il commercialista come fa a stabilire che quella era la rata definitiva? Beh no, siamo sicuramente in presenza di un errore, però bisogna vedere più che altro cosa succede a conguaglio, perché in buona sostanza se c'è un secondo figlio che non è stato conteggiato, a meno che non sia nato nel corso dell'anno questo bambino. Lo chiediamo, Nico, quando è nato questo suo secondo nipote? È nato quest'anno, ad aprile. Ecco, quindi essendo nato ad aprile bisognerà considerare sostanzialmente 9 mesi, immaginiamo che sia nato nella prima parte di aprile, 9 mesi di detrazione su 12, quindi un po' meno di 50 euro fare il rapporto, e bisogna quindi vedere che cosa decide il comune, perché se il comune per l'abitazione principale avesse fissato un'aliquota un pochino più alta dello 0,4% di base nazionale, anche quei 50 euro di detrazione, anzi un po' meno di 50, che non sono stati conteggiati, può darsi che l'importo vada comunque a chiudere, quindi bisogna rifare i conti a dicembre e vedere se avanza un credito oppure se si va a chiudere così. Magari potrebbe anche scoprire di dover versare ancora qualcos'altro, ecco. Infatti, per cui Nico, in ogni caso c'è l'opportunità di risistemare, ridefinire l'intera situazione in dicembre, non tutto è perduto. Perego, su questo caso voleva aggiungere qualcos'altro? Dobbiamo attendere fino al 30 settembre i regolamenti comunali. Probabile che i regolamenti comunali prevedano, qualora vi fosse un eccesso di versamento, la possibilità di presentare un'istanza di rimborso. Allora, dobbiamo, dobbiamo anche ricordare che nell'ambito del regolamento sarà stabilito l'importo minimo da poter chiedere al rimborso o per il quale eseguire il versamento, che attualmente a livello governativo è stabilito in 12 euro. Benissimo. Cristiano, ma vogliamo farci mancare la strepitosa occasione di ricordare la formula magica con cui si calcola il versamento complessivo dell'IMU, più o meno complessivo, diciamo, perché ancora bisogna verificare appunto il nostro comune come intende comportarsi e che tipo di aliquota definitiva intende applicare. Però, ma insomma, la formula magica. Direi di no, direi di no. Da come lo chiedi, direi di no. Insomma, no, diciamo che si parte dalla rendita catastale, che è quella solita. Quindi, diciamo, anche se fosse un vecchio rogito d'acquisto, va bene, la si recupera in questo modo. Quindi le rendite in quanto tali non sono cambiate. Poi la si rivaluta del 5%, quindi vuol dire che si moltiplica per 1,05. Poi, e qui sta la grossa diversità rispetto all'ICI, la si moltiplica, parliamo di case ovviamente, per un coefficiente che è 160, con l'ICI invece era 100. Questo importo ci determina il valore catastale ai fini dell'IMU. Allora, su questo valore catastale si va ad applicare l'aliquota stabilita dal comune, quindi se è abitazione principale potrebbe essere in un range tra 0,2% e 0,6%, perché quella base appunto è 0,4%, e può essere modificata all'insù o all'ingiù dal comune dello 0,2%. Ottenuto questo calcolo dell'imposta lorda, trattandosi di abitazione principale, si va a detrarre la detrazione, si va a togliere la detrazione, che sono normalmente 200 euro, poi anche qui i comuni hanno la facoltà eventualmente di maggiorarli o di, insomma, modificare diversamente la modulazione della detrazione anche per certe categorie di contribuenti, magari pensionati o contribuenti a basso reddito. Dopodiché si considera se ci sono dei figli, e qui i comuni non hanno margini. Lo Stato ha stabilito che per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni spettano 50 euro. Tutto questo calcolo ci dice qual è l'imposta che deve essere versata, l'IMU da versare per il 2012. Bisogna però fare appunto una differenza, perché a giugno e a settembre ci si attiene alle regole statali. A dicembre si tiene conto delle regole comunali e si fa la differenza per vedere quanto in più o in meno si doveva pagare, il famoso conguaglio che ci creerà un po' di problemi. Sto già godendo tutte le puntate che faremo io direi di cominciare gli inizi di novembre, Cristiano, per arrivare appunto al 17 dicembre con un po' di serenità. Tra l'altro, mentre parlavi, ho avuto anche questo pensiero perverso, ricordando che tu sei di Casale Monferrato, che comunque hai la famiglia lì. Alessandria mi sembra che sia uno dei comuni che ha dichiarato la bancarotta, comunque sia in grosse difficoltà finanziarie. Stavo immaginando allora per questi comuni in difficoltà come si possono essere comportati con questa scadenza. Beh, se ce ne fossero sul territorio italiano. Nei giorni scorsi è stato nominato il commissario d'Alessandria. L'esperienza di Parma, che è un comune che ha un po' preceduto, diciamo, Alessandria su questa via, ha indicato che il commissario appena arrivato ha messo tutte le aliquote al massimo. Certo. Poi si tratta di vedere ovviamente caso per caso. Ecco, chi però ne ha messe al minimo? Ti risulta che ci sia qualche comune che abbia avuto questa possibilità addirittura? No, tutte al minimo? No. Diciamo che in generale la dinamica dell'IMU avvantaggia da questo punto di vista i comuni che hanno molte seconde case. Perché? Perché tenendo alto il prelievo sulle seconde case è possibile fare leva appunto sul gettito che arriva dai non residenti, che quindi sono anche non votanti per quanto riguarda il sindaco, che è un fattore non trascurabile. Si può far leva su questo gettito per tenere basse le aliquote sulle altre abitazioni affittate, prime case, immobili produttivi e così via. Allora, prima abbiamo scelto un ascoltatore che facesse da portavoce per tutti coloro che non hanno potuto fare il versamento a giugno. Adesso ne riscegliamo un altro, che è Matteo da Livorno, che invece è il portavoce di tutti i neoproprietari di casa e che sono diventati appunto proprietari di abitazione principale da quest'anno. Matteo da Livorno, buongiorno. Rapidissimo, buongiorno, la sua domanda. Buongiorno, poi andiamo. Lei, rapidissimo, ha acquistato casa il 24 luglio, è la mia prima casa. Il vecchio proprietario era per lui una seconda abitazione. Volevo sapere come comportarmi. Niente, questa è la cosa. Per quanto riguarda le aliquote ICI, credo che sia il comune di Peccioli, uno dei comuni italiani che abbia adottato l'aliquota più bassa grazie agli introiti e alla gestione oculata che fanno di una discarica di rifiuti che hanno qui sul territorio. Benissimo, grazie Matteo che ce l'ha riportato. Vedo già Cristiano Dell'Oste che prende appunti e sicuramente andrà a caccia del sindaco di questo comune virtuoso per poi riportarne dettagliatamente l'esperienza sulle pagine del Sole nei prossimi giorni. Allora, Stefano Perego, vengo da lei, l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Ci dica un po' come devono comportarsi i nuovi proprietari. Nella fattispecie il nostro ascoltatore livornese mese Matteo è diventato proprietario della sua abitazione ed è un'abitazione principale. Poi tra l'altro su questo concetto ci dovremo soffermare un po' più a lungo, perché è una delle grandi novità rispetto alla vecchia ICI, il concetto appunto di abitazione principale. Matteo è diventato proprietario il 24 luglio, deve versare l'IMU, in che importo, come fa a calcolarla? Essendo un acquisto eseguito del 24 luglio, lui dovrà pagare l'imposta con un rapporto mensile, quindi dal 1 agosto. Deve calcolare l'imposta dal 1 agosto e può scegliere se decide di pagarla in due rate, quindi anticipare una rata a settembre ed eventualmente il conguaglio a dicembre. Deve tenere conto della detrazione, ma non si deve vedere pari a 200 euro sull'abitazione principale, rapportata ovviamente ai mesi di possesso. Certo. Quindi 200 diviso 12, escludiamo i primi 7 mesi, ci restano 5 mesi, e quindi 200 diviso 12 per 5. Se avesse dei figli, se avesse dei figli di età inferiore ai 26 anni, anche qui va rapportato ai mesi di possesso? Anche per i figli la detrazione è sempre rapportata ai mesi di possesso, e nonché anche al fatto che risiedano tutti gli effetti nell'abitazione principale. E quindi diciamo per i figli il rapporto deve essere doppio. Dobbiamo ricordare anche all'ascoltatore che avrà l'obbligo di presentare la dichiarazione al comune per l'acquisto, proprio perché usufruisce dell'agevolazione dell'abitazione principale. Siamo in attesa comunque del decreto ministeriale che ci dia che stabilisca le modalità di questa dichiarazione. No, ha tra l'altro fatto un'osservazione importante Perego, perché ha ricordato anche, adesso a prescindere dall'IMU o meno, che ma in questo caso solleviamo questo tema perché è proprio importante ai fini del pagamento IMU. Se si diventa proprietario di un'abitazione, il comune deve avere che tipo di comunicazione ai fini del versamento dell'imposta municipale unica, Cristiano? Deve avere quella che si chiama dichiarazione IMU, che al momento, come diceva giustamente Perego, dipende da un regolamento che non abbiamo ancora. Quindi le modalità e i casi in cui nel dettaglio deve essere presentata la dichiarazione non li sappiamo. Ma esiste un modello già? No, diciamo che esistono analogie con la vecchia dichiarazione ICI. Ecco. Ed è altamente verosimile che si tengano buone tutte le vecchie dichiarazioni ICI, fatta eccezione appunto i casi come quello del nostro ascoltatore, di chi ha comprato o anche ha acquistato magari per successione una casa nel corso del 2012. In questi casi la dichiarazione dovrà essere fatta per comunicare al comune che appunto qualcosa è cambiato. Allora, una grande differenza tra l'IMU e l'ICI è la considerazione, la nozione di abitazione principale. Ritorniamo su questo punto, Cristiano, che mi sembra che vale la pena essere dettagliato. E sì, anche perché proprio ai fini della scadenza del 17 di settembre è qui che potrebbero annidarsi degli errori, nel senso che ci potrebbero essere dei proprietari che in perfetta buona fede erano convinti di abitare in una prima casa, in un'abitazione principale, e poi magari nel corso del tempo hanno scoperto che non era così e che dovevano pagare come seconda casa. Allora, ai fini dell'IMU è importante dire che l'abitazione principale è quella in cui il proprietario e il suo nucleo familiare hanno sia la residenza anagrafica, quindi quella che risulta in comune, che la dimora effettiva, quindi devono effettivamente abitare in questa casa. Questo è un po' un aspetto delicato, perché ai tempi dell'ICI era abbastanza frequente avere delle residenze alle quali poi non corrispondeva a tutti gli effetti una dimora. Ecco, invece per l'IMU occorre avere entrambi i requisiti ed occorre che ce li abbia tutto il nucleo familiare. Quindi, ad esempio, si era posta la questione dei coniugi che hanno la residenza in case diverse all'interno dello stesso comune. In questo caso, sdoppiamento di residenza fra coniugi non separati. Così. Non separati, ovviamente, ecco, esatto. Stiamo parlando di non separati. Allora, in questo caso dovranno scegliere, perché una sola delle abitazioni può essere considerata abitazione principale, l'altra paga come seconda casa. Se invece i comuni sono diversi, allora qui la circolare delle entrate che è arrivata nei mesi scorsi, anzi la circolare, chiedo scusa, del Dipartimento delle Finanze, ha dato una maggiore apertura e consente, a patto che la dimora e la residenza siano vere, che non siano insomma residenze fittizie magari nella casa al mare, ecco, se effettivamente questi due coniugi risiedono e dimorano in due comuni diversi, ad esempio per motivi di lavoro, possono pagare su entrambe le abitazioni come abitazione principale. Andiamo ad altri ascoltatori, allora rapidamente Pino da Genova. Pino, buongiorno all'800 24 0024, com'è squillante Pino, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sono possessore di una nuda proprietà, sì, a Genova. Vorrei sapere se chi deve pagare l'IMU, se chi ha l'usufrutto oppure la nuda proprietà. Il proprietario. Pino, grazie, buongiorno. Allora, Stefano Perego, in questo caso ovviamente lo offro a lei. Grazie. Sarà molto contento. In realtà la nuda proprietà non è un possesso, ma il possesso è in capo all'usufruttuario, e quindi è l'usufruttuario che avrebbe già dovuto procedere al versamento dell'IMU e il saldo a dicembre. Abbiamo ancora Pino in ascolto. Pino, ci sente? Sì, pronto, ci sì, sono. L'usufruttuario ha pagato la prima rata di giugno? L'ho pagata io veramente, perché sono... Perché è mia mamma l'usufruttuario. Ah, capisco, vabbè, quindi insomma, vabbè, adesso magari a parte questo potrebbe appartenere, speriamo, questa scelta ad una questione di, come dire, organizzazione domestica, però in ogni caso il principio legislativo definisce che è l'usufruttuario che deve pagare. Perego. Sì, speriamo anche che ci sia nuovamente una semplificazione che è stata prevista per l'ICI, che qualora uno dei familiari paghi per un altro venga riconosciuto il versamento, perché in realtà con l'utilizzo del modello F24 vi è lo specifico codice fiscale del proprietario o del titolare del diritto, che in questo caso era l'usufruttuario. In precedenza la Cassazione si era espressa per riconoscere comunque valido il versamento, se non siamo in presenza di un omesso versamento da parte del titolare dell'obbligo. Quindi speriamo che Pino abbia fatto tutto regolarmente. Paola da Trento, buongiorno Paola. Buongiorno, grazie, complimenti per la competenza e la precisione di sempre. Grazie Paola. Io ho un problema che forse è anche un po' di nicchia, però io gestisco una casa appartamenti per vacanza di mia proprietà, sono 10 appartamenti, ho iscritta all'INPS, ho la partita IVA, tutto come è un'attività insomma imprenditoriale a tutti gli effetti, sì. Assolutamente, tranne che essendo abitazioni civili, perché sono appartamenti normali, l'IMU la pago come seconda casa, su tutti gli appartamenti sono tutti seconda casa. Volevo chiedere appunto se è giusto, se posso trovare qualche soluzione, anche perché la cifra è notevole. Infatti stavo giusto chiedendomi, Paola, anzi le volevo chiedere, è stato un bel salasso per lei? Sì, veramente, ecco, è stato un salasso notevole. E uno ci pensa anche se poi continuare a fare anche, come dire, esatto, andare avanti un'impresa di questo tipo. Paola, la ringrazio. Allora, Cristiano, cosa ne pensi? Poi andiamo anche a Perego. Ma diciamo che sono a tutti gli effetti seconde case, su questo c'è poco da fare. Più che altro bisogna vedere la distinzione che molti comuni fanno tra casa, come si dice tecnicamente, tenuta a disposizione, cioè la casa sfitta, e case affittate, case locate. Allora in questo caso molti comuni prevedono un'aliquota ridotta sulle abitazioni locate. È chiaro che trattandosi di un'attività di casa vacanze, la signora dovrà di volta in volta andare a dividere per ogni appartamento il periodo dell'anno in cui rimane sfitto da quello in cui è affittato, se c'è una differenza di aliquota, ma potrebbe valerne la pena. Ecco, questo è l'unica agevolazione che abbiamo, fermo restando che in molti casi sugli immobili locati c'è una moltiplicazione del prelievo, perché l'IMU è molto più pesante dell'ICI, soprattutto per questo tipo di fabbricati. Infatti, intanto ti preannuncio, Cristiano, che i nostri attentissimi ascoltatori ci stanno sollevando l'attenzione sulla possibilità che le rendite catastali di cui parlavamo prima possano cambiare in virtù della riforma del catasto, di cui si discuterà a breve, della quale credo torneremo a parlare anche noi. È giusta questa osservazione? Sì, possiamo anche dare un aggiornamento volendo, nel senso che la riforma del catasto è inclusa nella bozza di riforma fiscale, la cosiddetta delega fiscale. Allora, attualmente parliamo di un disegno di legge che è depositato in Parlamento. Se tutto va bene, i piani del governo sono di avere l'ok dalle Camere entro fine anno e poi a gennaio, febbraio, insomma a tempi molto rapidi prima della fine della legislatura, varare i decreti legislativi delegati su cui parte il progetto. Quindi diciamo che siamo ancora un po' di là da venire. Sicuramente non se ne parla nel 2012, ci vorrà comunque qualche anno. Allora, Luca da Genova, che dice che la rendita catastale cambierà entro il 17 settembre per la riforma del catasto e quindi dice il saldo non si può ancora stimare, è fuori strada il nostro ascoltatore. C'è un'altra ascoltatrice invece, Paola da Roma, che ci scrive al 349-238-6666 chiedendo se gli incapienti devono pagare l'IMU. E purtroppo sì, diciamo che L'incapienza entra in gioco da un punto di vista di quando ci sono detrazioni di cui non si riesce pienamente a beneficiare, insomma una nozione fiscale un po' diversa, però sia per i soggetti a basso reddito in generale che per eventualmente soggetti che non hanno avuto alcun tipo di reddito, spesso ci si è chiesti, i disoccupati devono pagare comunque. Purtroppo sì, perché in questo momento l'imposta è definita come una patrimoniale, quindi prescinde dalle caratteristiche di reddito del proprietario. Un'ultima osservazione la facciamo a beneficio degli ascoltatori colpiti dal sisma degli scorsi mesi nei territori dell'Emilia Romagna. Perego, un ascoltatore scrive, risiedono in un comune colpito dal sisma il 20 maggio, quando si deve versare la prima rata sospesa? In 10 secondi se ce la fa. Guardi, per i fabbricati distrutti è stata proprio prevista l'esclusione del pagamento dell'IMU, mentre invece per gli inagibili hanno la possibilità di usufruire di una riduzione. È stata prevista una proroga per i versamenti. Comunque, insomma, lì presso il proprio comune sapranno tutto quello che l'ascoltatore deve fare. Grazie Cristiano Dell'Oste e Stefano Perego, siamo già in super ritardo. Salva Danaio torna domani, a tutti buona giornata.